Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Potersi muovere con i mezzi pubblici è un diritto, è un diritto. In questa fase la capienza ridotta dei mezzi pubblici non consente a tutti di prenderli. Allora noi abbiamo costruito questo bonus che è coperto con 120 milioni, è previsto in 500 euro. C'è il bonus per i monopattini elettrici, fondamentale, mio figlio sarà contento, andare a lavorare sul grande raccordo anulare, un tangenziale a Milano col monopattino elettrico, fare l'agente di commercio col muratore col monopattino elettrico è abbastanza strano. La stragrande maggioranza dei cittadini italiani al lavoro, purtroppo ad oggi, a meno che non lavori sotto casa, ci va con un'autovettura. Buon pomeriggio, buona domenica, nuova puntata di Ruota Libera. È arrivato il tanto atteso buono per acquistare la bici e misure per favorire la ciclabilità in ambito urbano. Tutto questo con il decreto rilancio approvato dal governo questa settimana. Abbiamo sentito la voce del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e del leader della Lega Salvini per darvi brevemente conto del dibattito in corso, ma invece andiamo a sentire in questa scheda che cosa prevede questo bonus. Il bonus vale al massimo 500 euro e per il 60% della spesa. Per usufruire dell'intera cifra occorrerà dunque spendere almeno 833 euro. Si possono acquistare biciclette, anche a pedalata assistita, o veicoli della cosiddetta micromobilità elettrica, come Segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Ma si può usare il bonus anche per servizi di mobilità condivisa di bici e monopattini elettrici. L'incentivo vale per acquisti dal 4 maggio, con efficacia retroattiva, al 31 dicembre 2020. Può essere usufruito solo da maggiorenni, una sola volta, e dai residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia o nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Per ottenere il rimborso, l'acquirente dovrà caricare la fattura su una piattaforma che verrà inserita sul sito del Ministero dell'Ambiente. Il denaro, poi, dovrebbe essere accreditato sul suo conto corrente, ma in un secondo momento potrebbe essere anche il negoziante ad applicare lo sconto ed occuparsi del rimborso. Le modalità ancora non sono chiare e verranno specificate da un'apposita circolare del Ministero dell'Ambiente in arrivo nei prossimi giorni. Non è ancora chiaro se il bonus varrà per gli acquisti online e per l'usato. E come abbiamo sentito, un bonus destinato solo ai residenti nelle città che hanno più di 50.000 abitanti. Un limite che non è piaciuto a molti, ci sono anche arrivate delle domande. Su questo allora sentiamo che cosa ha risposto il ministro dell'Ambiente Costa dalla sua pagina Facebook. Il motivo per cui è stato fatto è che noi, dopo il lockdown, abbiamo inteso decongestionare le zone a maggior traffico. Le zone a maggior traffico, ovviamente, sono quelle zone delle cosiddette grandi città, dove tante macchine, tanti motocicli, tante motociclette aggravano il traffico, ma aggravano anche l'aria di quelle città. Noi non dimentichiamo che tanti problemi abbiamo per la qualità dell'aria delle nostre città, e in particolare di quelle città che hanno queste dimensioni, che non sono necessariamente quindi delle grandi metropoli, sono anche quelle, ma sono anche delle città medio-grandi. Ecco il motivo. Il motivo quindi è consentire al cittadino di poter fare il tragitto casa-lavoro, ma anche casa-scuola per esempio, quindi avere un rapporto col proprio lavoro, con la scuola dei propri figli, o gli stessi scolari con la propria scuola, in modo che non inquinino e nello stesso tempo che non si perda tempo nel traffico. E altra domanda ricorrente sul bonus riguarda il tema dei rimborsi. Qualcosa abbiamo anticipato nella scheda, ma abbiamo detto che tutto ciò verrà chiarito e dettagliato da una circolare attuativa del Ministero dell'Ambiente che arriverà nei prossimi giorni, ma il ministro Costa ha comunque spiegato alcuni passaggi che ci saranno. Il cittadino va dal commerciante e nella prima fase, cioè nelle quelle che si chiamano nelle more, nel tempo tecnico in cui costruiamo gli atti amministrativi, il cittadino anticipa questi soldi, si iscrive su il portale che a giorni noi metteremo sul portale del Ministero dell'Ambiente e riceverà a brevissimo i 500 euro o quella che è la percentuale che gli tocca. Appena fatto il decreto attuativo, tutto questo lo farà il commerciante. Quindi in ogni caso, nel giro di poco tempo, i soldi, o l'anticipa l'uno o l'anticipa l'altro, saranno disponibili ovviamente sul conto corrente. Non è che si gira con i soldi di carta, tra virgolette, è tutto quanto chiaramente online. Ma per migliorare la mobilità in ambito urbano non basta che i cittadini abbiano una bicicletta, che l'acquistino attraverso questo bonus, occorre anche migliorare il loro senso di sicurezza sulle strade delle nostre città. Il decreto, come sappiamo, interviene anche sul codice della strada con due novità, con la casa avanzata, una nuova linea di arresto presente in moltissimi paesi, dedicata alle bici e anche ai monopattini elettrici, che verrà posizionata alcuni metri più avanti rispetto a quella dedicata alle autovetture. E la seconda novità riguarda la cosiddetta corsia ciclabile, una corsia delimitata da una striscia bianca discontinua che viene uno spazio che viene ricavato nella parte destra della normale corsia di marcia, e poi insomma sono previste delle risorse per i comuni per le piste ciclabili. Alcune associazioni hanno però contestato le linee guida sperimentali che sono state pubblicate al Ministero dei Trasporti e che di fatto renderebbero molto difficile applicare queste novità del codice della strada. E sentiamo cosa ne pensa di tutto il pacchetto il presidente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Alessandro Tursi. Sicuramente positivo, non è tutto quello che ci aspettavamo e chiedevamo, ma non va bene, è comunque un passo avanti su due fronti fondamentali. Per noi il più importante è quello normativo, che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti da eventuali sciagurate linee guida ministeriali, perché poi i rappresentanti del popolo eletti fanno leggi che vanno in una direzione, poi però vi sono tecnici del Ministero formati con una formazione universitaria risalente al millennio scorso, tutta con una visione autocentrica, che sono molto zelanti nel creare una tale casistica così capziosa da rendere di fatto inattuabili le leggi che i legislatori fanno. È già avvenuto in passato con i primi timidi tentativi di senso unico e certo bici, e purtroppo il tentativo in corso adesso speriamo di riuscire a scongiurarlo. I sindaci vogliono mano libera per poter sperimentare queste norme guardando le migliori esperienze europee, soprattutto in tema di sicurezza. Più bici vuol dire più sicurezza sulle strade. La bici non è un giocattolo per andare a spasso nel parco, è il mezzo ideale per le strade in città. E più persone passano dall'auto alla bici, meno incidenti e meno feriti e meno morti ci sono, lo dimostra la letteratura. E invece il giudizio sul bonus bici immagino sia positivo. Intanto è un bel passo avanti, perché poi questi incentivi da fino al 60%, ma con un tetto di 500 euro, incentivano a comprare bici almeno fino a 800 e passa euro. Bici, ma anche monopattini, segway, la micromobilità, che comunque è sempre un mezzo alternativo all'auto e molto migliore dell'auto. Certo, la bici è migliore perché è mobilità attiva e quindi fa bene anche alla salute. L'OMS sta raccomandando di usare la bicicletta in questo periodo Covid proprio perché fa bene al sistema immunitario muoversi, oltre che garantire il distanziamento sociale. Questi incentivi, dicevo, in questa forma permettono di puntare su biciclette di qualità e non la bicicletta che troviamo a 100-150 euro che la prima rottura e la viene subito con quelle bici, anche difficile da far riparare. Sono bici più durevoli, più di qualità, per fare diversi chilometri al giorno andando a lavorare, oppure permette di accedere, rompe gli indugi per comprare delle buone biciclette pieghevoli, che magari oggi si porterebbero nel bagagliaio dell'auto per chi arriva molto da fuori città, parcheggia alla periferia e poi percorre gli ultimi chilometri in bici. E poi, quando si potrà tornare a usare appieno i mezzi pubblici, la bici pieghevole è il mezzo ideale per portarsela sulla metro, sul bus, così come le biciclette elettriche per la lata assistita. Questo bonus li avvicina economicamente ed è un mezzo eccezionale come alternativa all'auto. Bicicletta che si spera possa essere usata anche per andare al lavoro, il cosiddetto bike to work. Voi come FIAB avete elaborato una sorta di decalogo per le aziende con dei suggerimenti affinché questa pratica molto diffusa in tanti paesi europei possa essere anche da noi promossa e agevolata. Sì, abbiamo lanciato questo decalogo, questo vademecum, rivolgendoci alle aziende. Sia all'inizio ci siamo rivolti alle istituzioni e sta funzionando. Poi ci siamo rivolti ai cittadini con la campagna Prima la Bici. La puntata successiva della campagna è stata di rivolgerci appunto alle aziende e dando questo decalogo le cose principali che servono per incentivare il lavoratore ad andare in bici. Il comune può anche fare la ciclabile, però abbiamo detto cosa serve, cosa deve fare l'azienda per chi già va in bicicletta al lavoro per essere agevolato, ma soprattutto per chi vorrebbe cambiare o potrebbe essere indotto a cambiare abitudine. E quindi la prima cosa è dove la parcheggio in modo sicuro in bici. Abbiamo messo su ogni ambito un livello che va dal minimo all'ottimo. Parcheggiare innanzitutto nel parcheggio aziendale con delle rastrelliere di quelle ad archetto dove posso legare il telaio, non solo la ruota, i classici scolapiatti che non sono sicuri. Abbiamo previsto poi come livello buono una tettoia, come livello ottimo direttamente invece dentro un locale al chiuso e magari con la cassetta degli attrezzi per la micro riparazione di turno se c'è un problema. La stessa cosa è l'altra, dopo aver parcheggiato la bici, di cosa ha bisogno il lavoratore? Di cambiarsi. E quindi il minimo è un locale, un antibagno dove la persona si possa cambiare. Il livello buono è mettete almeno degli armadietti come in palestra e magari uno stendino, perché metto un soprabito impermeabile, due gocce di pioggia, lo metto lì a stendere così si asciuga. L'ottimo è, soprattutto per le grandi aziende, metteteci anche le docce. È normale in Scandinavia partire la mattina, farsi la doccia in ufficio una volta arrivati anziché prima di uscire, perché facendo molti chilometri si suda. E poi abbiamo parlato di chiesto incentivi di vario tipo, con le app oppure con degli hardware da montare sulla bici oppure registrando manualmente i viaggi in bicicletta per andare a casa lavoro, e quindi in quel caso dare soldi, dare permessi premio, delle ferie o conteggiare magari il tempo di spostamento come tempo di lavoro, che è una forma di anche quella di permesso premio di fatto, oppure dare le flotte aziendali in comodato d'uso ai ciclisti. Meglio ancora, l'ottimo è se si danno anche bici speciali, pieghevoli, elettriche, appunto magari le bici col trasportino per usarle per portare anche i bambini a scuola, insomma da tenersene per comodato d'uso per tutti gli spostamenti, a fare la spesa. Ci sono vari livelli, abbiamo elencato 12 punti in queste quattro aree: parcheggiare, cambiarsi, essere incentivati e comunicazione. Un prontuario molto semplice per cominciare a diventare subito aziende a misura di lavoratori in bici. Vai elegante, con fare di gazzella, sulla strada sibilo di saetta, per la ripartenza saltiamo in sella, che tu vada lento o abbia fretta. Alessandro Ricci, la fase 2 per il verso giusto. E con queste rime ci salutiamo, appuntamento alla prossima domenica, sempre dopo le 16. Grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Scriveteci se volete a rotalibera@radio24.it. Buona bici e buona domenica ad Alessandra Schepisi.